Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Yo quería ganar, pero estoy hecho. Gracias de corazón. No vamos a llorar como si lloraron estos que se comieron siete. Que festejen los alemanes que son ganadores en buena ley. Yo acá me voy a quedar gritando por Argentina. Perdí una final, sí. Vino todo el mundo a jugar el Mundial y quedo segundo y empiezo a respetar el estar en la final. Claro que estoy muerto, claro que tengo dolor, claro que no puedo más, pero no me van a escuchar largar una puta lágrima porque me dieron lo que yo quería, una final del mundo. 800 24 0024, abbiamo due ore per parlare del Mondiale, però noi ci proviamo, Noi abbiamo questo canale preferenziale con il Vaticano e vediamo se ci risponde Papa Francesco. Io muoio dalla voglia di sapere come ha preso la sconfitta ieri dell'Argentina. Pronto? Pronto? Buongiorno Santità, Radio 24, tutti convocati. Si ricorda, le avevamo annunciato la nostra chiamata oggi. Certamente, certamente. Buongiorno e buon pranzo. Buongiorno a lei. Quelli che stanno ascoltando e pranzando. Ha perso l'Argentina, purtroppo. Ha visto la partita ieri sera? No, purtroppo. Mi sono preso una poca di camomilla e sono andato a dormire. Purtroppo mi hanno svegliato le urla di gioia del Papa Emerito. Ma come è andato a dormire? Urla del Papa Emerito? Quali urla? Il Papa Emerito faceva molto rumore e urlava: chi non salta argentino è? E chi non salta argentino è? E questo si protraeva, e molto. Santità, io non ci posso credere, cioè lei ci sta dicendo che lei non ha visto la partita, lei che è un appassionato di calcio, no, tifoso, e invece Papa Ratzinger sì, ha visto la partita ieri sera. Esattamente, non solo Papa Emerito ha seguito la partita, ma mi ha pure telefonato dopo il fischio di chiusura. Ma come le ha telefonato? Sarà stato per consolarla? Mi ha detto: cucù, e la coppa non c'è più. E dopo fa Deutschland, Deutschland, über alles. Ma no, Santità, però dica la verità, anche se non ha visto la partita, io non ci credo che lei non abbia visto la partita, però se lo dice lei, però diciamo la verità, la Germania ha meritato di vincere ieri. Cosa ha risposto a Papa Ratzinger? Sì, ha meritato. Ho detto che ha vinto meritatamente la Coppa del Mondo di kickboxing. Ma come kickboxing? Sì, kickboxing. Migliore in campo è il portiere dell'Alemania, Neuer. La sua uscita su Higuain è un gioiello, un esempio di come si mette KO un avversario con ginocchiata nei denti. Molto spettacolare. No, molto. Non ci dica che anche lei ce l'ha su con l'arbitro, che tra l'altro è uno dei nostri. Santità è un italiano, lo sa Rizzoli. Oggi in Argentina i suoi conterranei ce l'hanno tutti con l'arbitro. Non ci dica che anche lei. Diciamo che come arbitro di kickboxing sicuramente uno dei migliori arbitri di questo universo creato dal nostro Signore. Le rubiamo ancora un minuto. Ha visto Angela Merkel in tribuna scatenata ieri sera? Sì, era impossibile non vederla. Primo perché diciamo che occupa molto spazio e dopo aveva questo colore rosso del vestito e quindi si vedeva sicuramente in tribuna. Ma quando, quando la prossima volta la vedrà in un incontro, insomma, lei cosa dirà ad Angela Merkel? Io ad Angela Merkel dirò: oh, come vorrei una Germania povera per i poveri. E comunque, se vinca o se perda, Alemania resta. You won't believe me. All you will see is the girl you once knew. Although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. Ce l'ha passato, c'è quella in posizione del gol. Posizione regolare, Messi resiste, arriva Perez dentro, Messi vuole cercarsi la conclusione, eccola che arriva a giro, invece cercato Palacio che la mette giù, Palacio la mette di gol. Oh, è finita come doveva da pronostico, con la Germania campione del mondo, con l'Argentina che piange. Avete sentito prima il nostro straordinario Andro Mercù, Papa Bergoglio, la Germania che torna a vincere 24 anni dopo l'ultima volta, che era stata Italia 90. Questa è la prima volta della nuova Germania, quella della riunificazione. Anche questo è un argomento, insomma, di cui sarebbe bello discutere, perché 20 anni fa pareva che quella Germania riunificata fosse destinata a dominare il calcio, invece così non è stato, hanno dovuto attendere un quarto di secolo. Argentina a cui sono rimaste le lacrime, è rimasto il rimpianto per una finale. Questa è la mia impressione, che sarebbe davvero potuta finire diversamente. Io non so se ieri sera hanno vinto i migliori, avevo pronosticato la Germania certamente nel mese del mondiale è stata superiore a tutti, però ieri avrebbe potuto certamente vincere l'Argentina. Mi interessa però sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24, stiamo insieme fino alle 16 e quindi voglio sentire tanti di voi. Poi avremo gli ospiti, ci sarà Pierluigi Pardo dal Brasile. Voglio sapere cosa ne pensate della partita di ieri, se davvero la Germania ha meritato di vincerlo questo mondiale. Vorrei sapere cosa ne pensate di Messi, e ad esempio di quella scena surreale di Messi premiato come miglior giocatore di questo mondiale, qualcosa che secondo me ha rasentato il ridicolo. Maradona ha usato anche parole più dure, poi le sentiamo. 800 24 00 24, beh dai, cominciamo a sentirvi. Piero da Savona. Piero, buongiorno. Prego. Intanto complimenti alla Germania, perché quando la squadra più forte che ha più meritato vince e lo fa correttamente è sempre una buona cosa per lo sport, no? Tanto più in uno come il calcio, dove spesso c'è molta casualità. E in particolare mi sono piaciuti Neuer, Hummels e Schweinsteiger, questo durante l'arco del mondiale in generale. Volevo parlare proprio di Neuer e fare due domande. Sì. Ho visto che il vostro simpatico Papa numero 2 ha fatto la battuta, ha fatto lo spiritoso sull'uscita su Higuain, parlando di kickboxing. A me è una delle cose che mi è piaciuta di più della partita, forse perché la kickboxing l'ho praticata, per carità. Sì, ma cosa? L'uscita di Neuer su Higuain? Su Higuain a livelli amatoriali, per sì. No, volevo chiedere se anche lei è dell'idea che non è solo il portiere numero uno al mondo, ma in questo momento è il giocatore, non so se più forte, ma comunque più decisivo, nel senso quello in grado di spostare di più gli equilibri della partita. Poi una domanda, diciamo, un po' scherzosa, però neanche tanto, no? Si è parlato molto della diffusione del calcio negli Stati Uniti, perché pare che quest'anno abbiano avuto un buon riscontro a livello di audience, ma lui giustamente continua ad appassionarsi soprattutto a discipline dove doti atletiche e il coraggio fisico sono preponderanti, no? Tipo il football americano, chi su ghiaccio, li capisco, piacciono moltissimo anche a me. Sì, si sono appassionati come ogni 4 anni, come del resto sì. Capita negli Stati Uniti anche per le Olimpiadi, sono molto nazionalisti. Io credo che da oggi, anzi da ieri, il calcio negli Stati Uniti tornerà a essere un meraviglioso sport da college, e poco altro. Sì. Come del resto è stato, su Neuer è il miglior portiere. Poi secondo me ci sono altri che hanno un impatto maggiore sulle partite. Prego Piero. No, volevo collegare questa cosa del calcio. Anch'io sono d'accordo con lei che da domani quando gli Stati Uniti sono stati eliminati, comunque ritornerà uno sport da college. Però ricollegandomi a Noia, non pensate che un montaggio degli interventi di Noia già solo in questo mondiale, no? Da parate spaccate, Pecco scivolato 30 metri fuori aria come contro l'Algeria, prese alte, uscite di pugni in cui travolge tutti, peraltro in maniera corretta, no? E rilanci di 70 metri con le mani, no? Sì, sì, possono aggiungersi magari ad azioni tipo la carica in balaustra dell'occhio, il lancio un atleta cuore. Completo, un atleta completo, però è un paio di anni che Neuer è credo il miglior portiere del mondo, non dovevamo arrivare qui per scoprirlo, anche qui quelli del Bayern ci hanno visto lungo 2 anni fa, hanno speso tanto, 20 milioni, ma si sono sistemati per una decina d'anni. A proposito di programmazione, perché a volte anche spendere tanto significa programmare bene, e il caso di Neuer secondo me è uno di questi. Potete anche scrivere 349 238 6666, c'è chi dice Messi spinto dagli sponsor, Maradona era di un altro livello, questo è Luca, invece Ugo, hanno vinto i migliori però lasciare a casa Tevez è stata una pazzia pura. Ecco, anche questa domanda in tanti se la stanno facendo in quest'ora, in queste ore, cioè se il destino dell'Argentina poteva cambiare con Tevez ad esempio, visto Higuain che, scrive un altro amico, ha fatto un pessimo mondiale, dico io, ha mancato un'occasione fondamentale, quella nel primo tempo che avrebbe cambiato il senso di questa finale, e non è la prima volta che succede. Mi è venuto in mente ad esempio l'errore incredibile di Higuain a Dortmund in una partita chiave per l'ultima Champions League del Napoli, anche quella con errore. Antonello dalla provincia di Latina. Antonello. Ciao, complimenti per la trasmissione, mi fate molto compagnia. Grazie. Io avevo una domanda da fare. Prego. Allora, da premettere che secondo me la Germania ha vinto meritatamente il mondiale, anche se poi una partita secca ci può stare tutto, insomma, poteva vincere pure l'Argentina. Però la cosa più che mi dà fastidio è vedere il figlio di Blatter, perché io così lo chiamo, il figlio di Blatter, prendere il premio come miglior giocatore del mondiale. È una cosa vergognosa. Volevo sapere cosa ne pensavano. Penso che sia stato un errore, ma nel 2006 quel premio andò a Zidane, che un quarto d'ora prima si era fatto espellere per una testata Materazzi. Vi faccio sentire cosa pensa Maradona, ad esempio, di Messi e della sua finale ieri. A Leo le regalaría el cielo, pero cuando no es justo y cuando quieren los marketineros hacerle ganar algo que no ganó, es injusto, porque Robben hizo un campeonato excepcional, porque hoy el mismo Müller en el partido de Argentina hizo un sacrificio increíble, ¿no? Y James Rodríguez. A mí me gustó James. Bueno, y James Rodríguez, para mí también, coincidimos. ¿Por qué? Coincidimos. James Rodríguez, el mejor jugador del mundo. Chiaro, no? Cosa dice Maradona? Io a Lionel Messi regalerei il cielo, per tanto lo ammiro, però devo dirgli che ieri ha vinto qualcosa che non meritava, e questa non è una cosa bella, perché quel premio lo meritava qualcun altro, ad esempio James Rodriguez, però quel premio per mille motivi, probabilmente anche di marketing, è andato a Messi. Ancora Maradona sulla finale, sull'Argentina. Io lamento per il paese. Me dolió en el alma el gol de Götze. Creo que si nosotros le metemos el gol de Higuaín, yo creo que lo que estaríamos festejando éramos nosotros, porque Alemania no fue una Alemania arrasadora como para decir, bueno, Alemania respetó a Argentina. E quindi Maradona che dice: avesse segnato Higuaín, la partita poteva cambiare. E poi c'è un tema, a parte Rizzoli, di cui parleremo, perché oggi i giornali argentini lo paragonano a Codesal, che è l'arbitro messicano d'Italia 90 della finale tra Argentina e Germania. A parte Rizzoli, in tanti si stanno chiedendo perché Sabella ha cambiato alla fine del primo tempo e ha tolto Lavezzi, che era forse il migliore in campo dell'Argentina. Maradona: mi pregunto ¿por qué el cambio de Lavezzi si Lavezzi estaba jugando fenómeno? ¿Habrá alguna explicación? Esperemos, ¿no? No quiero cargar contra nadie porque no es mi estilo, pero el Pocho es el que le da una mano a los mediocampistas argentinos. E in tanti dicono Lavezzi è uscito perché l'ha voluto Messi, il vero allenatore ombra di questa Argentina, che preferiva giocare con Agüero, Higuaín e con un ruolo a lui più congeniale. Io non lo so se è andata così. Sabella ha detto che è stato un cambio tattico deciso da lui. Certo è che Lavezzi nel primo tempo aveva creato parecchi problemi alla Germania. Nicola da Napoli. Nicola. Salve a tutti. Io volevo intervenire sul discorso sui paragoni che in passato si sono fatti tra Messi e Maradona. Cioè, a parte che non meritava sicuramente il titolo di miglior giocatore del mondiale, perché quello non l'ha meritato sul campo. E poi i paragoni, penso che adesso probabilmente la si smetterà di paragonarlo a Maradona, perché mentre Maradona è creatore, è dio del calcio, lui non, se non ha una squadra che è forte, tipo Xavi e Iniesta con il Barcellona, è incapace di far vincere la propria squadra, almeno per ora. Questo ha dimostrato, quando si tratta di giocare sul serio e non contro le squadrette della Liga, è incapace di fare grandi cose. Sì, quando si tratta di se però ieri sera Nicola fosse finita, Nicola, se ieri sera fosse finita diversamente, secondo me il paragone ci sarebbe stato. Probabilmente. Ci sarebbe caratterialmente stato. Mai però, caratterialmente come leader no, probabilmente come tecnicamente si potrebbe parlare, ma oltre la tecnica c'è di più in un gioco di squadra, c'è bisogno di essere anche un leader, un motivatore. Maradona era spietato da questo punto di vista, è totalmente diverso, almeno da quello che si vede, da quello che si ricorda e da quello che si vede ancora oggi. Cioè Messi, oltre a essere tecnico, oltre a essere portato avanti dagli sponsor e vincere premi su dei voti e dei votanti della FIFA, però sul campo, quando si tratta di vincere cose importanti, purtroppo questa era una macchia che se la porterà per sempre. Poi se tra 4 anni vince il mondiale, boom per lui, ma altrimenti non riuscirà mai a reggere il paragone. Sì, anche se questo era il mondiale di Messi, questo è ancor più di quello precedente del 2010 e a maggior ragione di quello di Russia fra 4 anni, bisogna anche vedere in che condizioni arriverà, perché viene da 2 anni difficili dal punto di vista fisico Messi. Ivana da Roma. Ciao, buonasera. Ciao, prego. Niente, vabbè, vi ringrazio, vi sento quasi sempre. Io sono argentina. Niente, soltanto volevo partecipare al programma per commentare che considero che comunque noi abbiamo fatto un bel mondiale. Siamo cresciuti, o è cresciuta la mia nazionale durante il mondiale, e che c'era una cosa molto importante, che era il gruppo. Che era un gruppo umano bellissimo, un rapporto fra di loro fantastico, e pure tutto fatto pure grazie a Sabella. Mi spiace tanto, però rispetto pure la Germania. Sì, però per come sono andati ieri 120 minuti, dico io, la Coppa oggi poteva portarla a casa l'Argentina, che non è certamente migliore della Germania, ma ieri sui 90 minuti e poi anche nei supplementari di sicuro qualcosina in più ha fatto, le occasioni le ha avute. Tutti convocati. L'orgoglio di essere arbitro italiano e di aver rappresentato stasera gli arbitri italiani credo che sia in questo momento difficile da descrivere, perché non lo so, non lo devo dire io, però credo che ce lo meritiamo. Il nostro caso si merita di più in generale, non solo gli arbitri, parlo proprio del nostro caso italiano, si merita di più e ha bisogno di ricostruire probabilmente qualcosa. E insomma, alla fine non dico che si possa partire da noi perché è sbagliato, però abbiamo dimostrato di avere un livello tecnico che può stare nel set del mondo. Non dico che siamo i migliori del mondo, perché non è vero, però sicuramente siamo tra quelli in cui Massimo Busacca ha potuto scegliere e considerare affidabili, quindi credo che sia un merito molto grosso che la nostra associazione in 8 anni ha costruito un sistema, un'associazione molto solida. Questo è un applauso che va fatto ai nostri dirigenti. Chi chiaro che il livello anche degli interventi magari in certe situazioni è un pelo alto, anche credo Aguero non ha sicuramente avuto l'intenzione, almeno percepita dal campo, di andare a creare un danno, ha messo il braccio alto che non si può fare, quindi l'interpretazione sul campo è stata di un fallo e non di un fallo tale da creare un danno. È chiaro che poi dopo se c'è un piccolo taglietto che è creato dal dito piuttosto che dopo quella è una cosa televisiva, ma dal campo a parte la prima reazione istintiva di Schweinsteiger, anche lui stesso ha accettato molto. La gente non ci sta. Mi dici qual è stata invece la decisione più difficile che hai dovuto prendere in questa finale? Ma difficile, io personalmente magari no, è che nel momento in cui uno annulla un gol per fuorigioco, per quanto poi con un fermo immagine si capisca che è giusto, eccetera, in campo crea molta tensione, quindi la gestione di quei momenti credo che sia una delle cose più complicate. Poi la fiducia che io ho in Stefani e in Soverani è incredibile, quindi, ma incredibile perché se la meritano. Oh, quindi possiamo demolire definitivamente la leggenda metropolitana che gli arbitri non possono essere intervistati, non possono parlare di episodi di campo. Quello che avete sentito era Nicola Rizzoli ieri, credo alla Rai, Rai Sport, una mezz'oretta dopo la fine della partita. Avete sentito parlare di alcuni degli episodi caldi di una finale che gli argentini dicono è stata decisa proprio dai mancati fischi di Rizzoli, che viene definito il Codesal italiano, Codesal arbitro, che nel 90 diede un rigore che probabilmente non c'era alla Germania, consentendo a Breme di segnare alla Germania Ovest di vincere la Coppa, togliendola all'Argentina. Graziano Cesari, ciao. Buongiorno. Buongiorno, intanto smitizziamo questa cosa che gli arbitri non possono parlare. Io non ho mai sentito un arbitro rispondere mezz'ora dopo la partita su singoli episodi. Sì, mi fa molto piacere che Nicola Rizzoli si sia presentato davanti alle telecamere. Io speravo telecamere di tutto il mondo, non solamente quelle della Rai, mi sarebbe piaciuto moltissimo. Ti devo dire che è un comportamento che mi piace molto, anche perché poi sappiamo esattamente quello che ha vissuto Nicola Rizzoli durante la partita, ci può spiegare meglio di tutti le sensazioni, le emozioni, le delusioni che ha avuto durante la partita. Credo che non abbia avuto nessuna difficoltà a spiegare, ho sentito adesso dalla vostra intervista cosa ha detto, quindi mi sembra assolutamente un fatto normale. Per persone civili spiegare quello che si è fatto credo che sia un dovere, è anche un diritto. Sì, sarebbe bellissimo che capitasse anche nei prossimi mesi, anche per il campionato italiano, anche se abbiamo capito che non sarà possibile, perché viene continuamente detto che non c'è la cultura per farlo sufficiente. Però ti leggo alcune pagelle di Rizzoli oggi sui giornali italiani. Io non ti cito quelli argentini perché, come detto, gli argentini ce l'hanno a morte con Rizzoli. Allora, Gazzetta dello Sport 7:30, la partita perfetta. Corriere della Sera 6:30 da Casarin, che lo definisce però buonista. Poi Repubblica e La Stampa gli danno 6. Corriere dello Sport 5. Mancano un paio di cartellini rossi. Allora, che partita ha arbitrato Rizzoli? Allora, io ho diviso, ho dato il mio voto, finale è sul sito di Mediaset Sport, è voto 8, perché ho diviso la partita in tre tronconi. Il primo tempo assolutamente eccezionale, dove eccelle quella segnalazione di offside difficilissimo di Faverani che annulla il gol di Higuaín. Una situazione veramente molto complicata, e lì secondo me Nicola Rizzoli ha fatto benissimo al primo tempo. Poi c'è un secondo tempo dove qualche indecisione, e mi riferisco al fallo fischiato ad Higuaín per l'intervento di Neuer, quando Neuer ha preso il pallone con il pugno, quindi non c'è assolutamente calcio di rigore. Quindi non è come dicono gli argentini, perché oggi quello che sostengono gli argentini è che quello era calcio di rigore. Si fa dire che... Dunque, se ci sono due giocatori che corrono in direzioni opposte, Higuaín corre verso la linea di fondo parallela alla linea laterale, Neuer ci corre in modo perpendicolare, è inevitabile che ci sia un impatto, ma Neuer ha tutto il diritto di andare col pugno, perché è un portiere, può giocare in area di rigore il pallone con le mani, quello che non può fare Higuaín. Quindi tocca nettamente il pallone, lo scontro è inevitabile, c'era solamente da riprendere il gioco con una rimessa laterale invece del fallo, quindi questo lo ha penalizzato e gli ha dato 9. Il extra time invece mi dispiace, ma sia Gueo che Schweinsteiger dovevano essere espulsi dalla seconda ammonizione, allora ho dato 5. la somma di 10 più 9 più 5 è 24, la dividi per 3 e il mio voto finale e fa 8, che va oltre anche alla Gazzetta dello Sport. C'è chi ci dice Rizzoli è stato aiutato dal comportamento dei giocatori, non come succede da noi, niente sceneggiate, tuffi, furbizie. In tanti scrivono Rizzoli disastro come sempre, ogni decisione importante l'ha sbagliata. Mi incuriosisce anche il tuo parere sull'entrata di Ouedes nel primo tempo, credo su Zabaleta, col metro europeo credo da cartellino rosso, poi abbiamo scoperto in questo mese mondiale che in realtà si può arbitrare anche in un'altra maniera. Ah beh, assolutamente sì, io mi riferisco all'espulsione assurda di Marchisio e poi abbiamo visto delle altre giocate, degli altri interventi durissimi che non sono stati sanzionati. Detto questo, ti devo dire che lì il regolamento è anche molto farraginoso. Se tutte le volte che c'è un intervento di sopra delle righe si usasse il cartellino rosso, si eliminerebbe ogni tipo di problema. Invece il regolamento ti permette nella valutazione di vedere se la gamba è tesa, se non la gamba non è tesa, se il piede è martello, se un intervento duro è fatto con violenza oppure no. Ecco le discrepanze per il tipo di provvedimento disciplinare che può essere adotta. Dovrebbe essere molto più semplice, molto molto più semplice. Sì, poi ancora chiedono da casa sulle fantomatiche direttive FIFA per non ammonire. Ammesso che siano esistite, cioè ammesso che si possa chiedere agli arbitri di chiudere non uno, a volte due occhi in nome dello spettacolo, io non so che impressione hai avuto tu in questo mese. Io devo dire che è assurdo dare una disposizione di quel carattere, di quel genere. No, nella prima mezz'ora non si ammonisce perché ogni partita fa storia a sé. Devo dire che un fondo di verità c'è, perché se tutto il gruppo arbitrale composto dai 25 fischietti hanno adottato questo tipo di disposizione, dal trentesimo in poi via libera ai cartellini. Qualche cosa è stato detto, è chiaro che è una disposizione che non mi trovo d'accordo, assolutamente. L'arbitro deve arbitrare con piena autonomia sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista disciplinare. Detto questo, io ho visto per esempio nel campionato del mondo adottata una regola con un richiamo solenne e poi il cartellino giallo, cioè far capire che quando arriva il provvedimento giallo, del giallo è un avvertimento, perché sei sulla via di andare negli spogliatoi. Ecco, dare importanza a questo tipo di provvedimento. Nel campionato italiano vediamo delle cose che sono allucinanti, ma permettimi di dire una cosa: se questo è Nicola Rizzoli, che noi abbiamo spesso ammirato all'estero e anche nel mondiale, un arbitro assolutamente di grandissimo spessore, quello che vediamo in Italia è diverso. Dobbiamo renderci conto che le polemiche spesso nascono perché molti adottano un tipo di arbitraggio totalmente diverso. Vanno all'estero e trovano motivazioni, trovano forza. Arrivano in Italia, un po' perché le polemiche sono tante, un po' perché lo stress è tantissimo, un po' perché probabilmente non hanno voglia di arbitrare in Italia dopo 10-11 anni e inevitabilmente si siedono e allora arrivano gli errori. Sì, perché anche nell'ultima stagione Rizzoli non è stato il miglior arbitro italiano, poi era evidente che la FIFA aveva puntato su di lui per questo mondiale, anche giustamente, vista poi come è andata, perché Rizzoli è stato un ottimo arbitro nel corso di tutto il mondiale. Ieri poi ci sono stati questi episodi, li abbiamo ricostruiti. Prima di salutarti volevo sapere da te invece un giudizio globale. In tanti hanno detto finalmente un mondiale senza scandali arbitrali, che non è il massimo della consolazione, però è anche vero che in passato abbiamo visto di tutto. Insomma, se cominciamo dalla partita inaugurale, quella di Nishimura, il giapponese Nishimura col Brasile, devo dire che insomma, che quello non è uno scandalo, poco ci manca. La finale del terzo quarto posto non credo che sia. Sì, però quella è un'amichevole, più, insomma. Vabbè, è un'amichevole. È quello che ha fatto il vampiro, il messicano, lo siamo dimenticati? No, assolutamente no. Quindi non ti sono piaciuti? No, devo dire che c'è che in questi il criterio di meritocrazia secondo me sarebbe fondamentale. È chiaro che avendo un paese per ogni un abito per ogni nazione, diventa anche molto difficile, cioè non è un sistema congruo di portare gli arbitri ai mondiali perché rappresentano una federazione ed è un voto, non ci sta, i più bravi dovrebbero andare là. Tutto questo sono perfettamente d'accordo su che c'è stato un livello molto molto alto e finalmente non ho visto gli arbitri di porta. Sì, e tra l'altro, abbiamo visto altre cose, quelle che l'UEFA non vuole, ad esempio la tecnologia sul gol non gol, ad esempio lo spray che, sei d'accordo, entri l'anno prossimo anche in Europa, nel campionato di Serie A? Ma immediatamente, perché ti dà la sensazione che sia una cosa giusta, cioè è talmente facile per il pubblico capire che chi fa il furbetto in barriera deve usare un altro mezzo, non so, i passettini per andare avanti, e tu lo vai a sanzionare, è talmente logico, è talmente bello che il pubblico l'accetta immediatamente, perché è una cosa che è visibile per tutti, si fa una infrazione e tutti la guardano, la possono commentare. Ecco, questo secondo me sono cose bellissime, si deve introdurre immediatamente. Sì, tra l'altro non è neanche una novità del mondiale, perché, no, perché in Sud America si usava, però l'abbiamo scoperta, buona così, speriamo che a settembre la ritroviamo come novità anche da noi, anche in Europa. Un abbraccio Graziano. Un abbraccio a voi, ciao, buon proseguimento. Grazie Graziano Cesari. Cose bellissime questa notte in Brasile, in Argentina, non ovviamente gli incidenti di cui abbiamo parlato anche nei notiziari, con feriti e con arresti, ma ad esempio il nuovo inno, quello che questa volta i tifosi del Brasile hanno dedicato agli argentini, sempre su quel motivo che ormai ci è uscito dalle orecchie, però questa volta dedicato all'Argentina che aveva perso la finale. Rimpianto più grande qual è? No, di aver arrivato qui alla finale contro una grandissima squadra, ma penso che meritavo un po' di più. Ai rigori magari potete arrivarci? No, penso che sì, ma c'hai due o tre situazioni che possiamo fare gol, no? Non l'abbiamo fatto bene, adesso l'eccezione è troppo grande. Delusione grandissima, tra ieri sera e questa notte molti giocatori argentini hanno chiesto scusa per aver perso la finale, Argentina che invece è uscita a testa altissima da questo mondiale e soprattutto dalla finale, forse con l'eccezione di Messi, che secondo me ha fatto una partita ampiamente sufficiente ieri, forse la migliore della seconda fase di questo mondiale, però evidentemente ha mancato l'appuntamento con la storia, perché questo mondiale lui doveva vincerlo, perché pesava il paragone con Maradona, e perché da oggi Messi è condannato a vivere per sempre, credo, sullo sfondo dei due, tre più grandi di tutti i tempi. Però voglio sapere anche cosa ne pensate voi, 800 24 00 24. Salvatore dalla provincia di Salerno. Salvatore. Salve. Prego. Allora, io ho chiamato perché mi sembra ridicola una cosa sola. Allora, il paragone che lo fanno da mesi, da anni, Messi Maradona. Allora, lasciamo perdere il Dio. Il Dio è Diego. Sì, il Dio è Maradona. Allora, certo, Maradona. Perché io ho 57 anni, ho visto e vedo. Ho visto Diego e vedo Messi, Lionel. Cioè, non c'è paragone. Maradona vinceva da solo, Maradona era squadra, era gruppo, faceva gruppo da sì, solo. Sì, però Salvatore, Maradona ha anche vinto pochissimo rispetto a Messi, anche questo va considerato. Poi ripeto, il mondiale probabilmente faceva da discrimine, c'è un prima e c'è un dopo, il dopo dice che Messi non ha fatto quello che ha fatto Maradona, però il paragone si poteva fare, si può fare, o no Salvatore? No. Sono due epoche. Allora, non è che uno. Allora, non voglio dire l'epoca mia, perché è pure l'epoca attuale, Messi. Cioè, non c'è paragone, sono due diversi. Cioè, chi si prende. Allora, vede, se noi stiamo al mare, prendiamo i figli per mano e nuotano. Cioè, Maradona era quello. Questo qua no. Vabbè, questo è uno che ha vinto tantissimo, c'è chi dice, lei dice, l'ha fatto perché nel Barcellona è circondato da una squadra di campioni che non può perdere. Io non so se sia così, e lo dimostra anche che cosa è successo al Barcellona nelle ultime due stagioni. Il Barcellona può perdere e come, e quindi Messi ha significato tanto anche nelle vittorie del Barcellona. Però è evidente che con la finale di ieri manca la controprova. C'è chi scrive, Messi non entra nemmeno nei primi 10 migliori al mondo di tutti i tempi. Non lo so, ditemi voi chi ci mettete allora. Maradona, potete metterci Pelé, potete metterci Di Stefano per chi l'ha visto, o comunque per chi ne ha sentito parlare. E poi chi altro mettete? Poi Luca da Milano, Maradona di un altro pianeta, e poi c'è chi dice, uno che ha questi problemi di stomaco in campo per una finale significa che non ha gli attributi, non ha il carattere del leader. Anche questo è un lato del carattere di Messi. Mimmo da Modena. Mimmo. Ciao, grazie per avermi convocato. Prego. No, io sono d'accordissimo con l'ascoltatore di prima, Salvatore, però c'è una differenza, che prima Maradona veniva marcata da giocatori che se oggi giocarebbero in campo l'arbitro le farebbero fuori, appena entrano tu sei espulso, tipo Gentile, Brighel, Stiliche, tutti quei marcatori a uomo. Maradona è stato marcato da quei grandi campioni che erano, adesso no. Poi c'è la differenza che Messi non gioca per la squadra, perché io vedo che pure i giocatori dell'Argentina ieri non facevano riferimento su di lui, ma soprattutto su Lavezzi. Io vedevo che Lavezzi era il protagonista ieri, non lo so perché l'hanno fatto fuori, non l'ha fatto giocare più, perché pure con l'Olanda uguale, Lavezzi stava giocando bene. Poi infatti dopo è uscito Lavezzi e è incominciato forse a giocare un po' meglio Messi, però è come se, cioè, come lui non fosse stato il protagonista, io devo essere il protagonista. Poi riguardo il miglior giocatore, sì, io l'ho visto, il premio della FIFA, sì, io la darei a Robben, perché per me Robben tutti i 120 minuti che ha giocato è stato il migliore. Sì, ma Robben o Rodriguez della Colombia o Neuer, perché no? Perché anche Neuer è stato importante ed è stato anche decisivo contro l'Algeria, ad esempio contro la Francia, tutti, ma non Messi, e non perché il mondiale di Messi, questo almeno il mio parere, sia da cancellare, perché ha fatto un'ottima prima fase, secondo me non ha fatto male nemmeno in questa finale, ci ha provato in tutti i modi, però certamente non lo meritava e nemmeno stato carino consegnarglielo lì sul prato a pochi minuti dalla più grande delusione della sua carriera. A proposito, vi faccio sentire l'idolo di oggi assoluto, Felipe Andreoli, giornalista brasiliano, che va in conferenza stampa dopo la partita, e sentite cosa chiede al City dell'Argentina. E quería saber de usted, decime qué se siente. Ya les dije anteriormente, una doble sensación, la sensación de tristeza, porque cuando uno llega a una final lo que quiere es ganarla, más después de, ya seríamos 30, ¿no? Porque el 90 salimos segundos, sería 32, perdón, 32. ¿Eh? Pero doble sensación, la sensación de tristeza, pero la sensación de la satisfacción de haberlo entregado todo, y de que los jugadores hayan hecho lo mismo, que hayan entregado todo, se hayan brindado como se brindaron. No hay nada que recriminar. Oh, avete sentito cosa gli ha chiesto? Gli ha fatto tutta la domanda e poi gli ha detto, ma io voglio chiederle, decime che si sente, cioè mi dica che cosa si prova adesso, che poi è quello che ieri sera, in maniera corrosiva, hanno immediatamente pubblicato quasi tutti i siti brasiliani, la foto della delusione argentina, e sotto Argentina, decime che si sente, ditecelo adesso voi che cosa si prova, mentre oggi c'è una grande mano 5 come titoli mondiali del Brasile in prima pagina, vestita coi colori della bandiera brasiliana, a ricordare agli argentini che il Brasile ne ha 5 e l'Argentina ne ha solo 2. Giuseppe da Reggio Emilia, Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, prego. Volevo dire la stessa cosa, insomma, quello che hanno detto prima gli amici spettatori di prima, il confronto Messi Diego. Cioè, io ieri ho visto la partita, ma ho visto anche delle partite di Diego, ma sono proprio due calciatori diversi. Cioè, Diego trasportava tutta la squadra, ma ieri Messi, essendo io tifoso dell'Italia, ma comunque era arrabbiato vederlo che non si muoveva, non faceva niente per cambiare le sorti. capito? Sì, ma secondo me si è mosso Messi, ci ha provato, il problema è che è arrivato a questa finale, ma forse a questo mondiale in condizioni fisiche difficili, è due anni che Messi non sta benissimo, è anche due anni che si è gestito male, ha passato l'estate in giro per il mondo a raccogliere soldi, a fare amichevoli, comparsate, cose di marketing, a gestire malissimo anche gli infortuni muscolari che ha avuto, tutto questo l'ha pagato anche in questo mondiale, dove ha fatto un'ottima prima fase e poi piano piano si è spento, fino a ieri sera, dove ripeto non è stato il peggiore però dell'Argentina, perché secondo me è ingeneroso dire che ieri Messi è scomparso dal campo. Ieri Messi ha fatto quello che poteva, ha anche messo un paio di palloni di quelli interessanti in mezzo all'area di rigore, però evidentemente non era la serata, non era la serata dell'Argentina. Vittorio da Napoli, Vittorio? Buongiorno. Sì, buongiorno. Posso esprimere un mio parere sull'arbitraggio di Rizzoli? Esprima. Ecco, Rizzoli per me ha arbitrato da 8. Ora ci dobbiamo domandare come mai questi arbitri italiani a livello internazionale sono sempre giudicati bene, mentre in Italia applicano spesso due pesi e due misure. Secondo il mio punto di vista, vedo il calcio dal 1953, è perché è ancora vigente purtroppo la sudditanza psicologica. Mm. Vittorio, lei mi dice perché i tifosi del Napoli, ad esempio Rizzoli, non lo vogliono vedere nemmeno dipinto? Io perché ha sbagliato tutto nella Supercoppa a Pechino di due anni fa. Sì, dove non arbitrava, tra l'altro. No, era un guardialino, un assistente. Sì, assistente però di porta. Ha molto condizionato l'arbitro di Mazzoleni, ma non mi ricordo più. Sì, Mazzoleni. Sì, là è stato un naufragio da parte dell'arbitraggio. Sì, però vogliamo dire, Vittorio, che si deve ripartire anche, ad esempio, dal consigliere che magari Rizzoli non sbagliò tutto in quella Supercoppa, perché probabilmente non sbagliò tutto, che comunque, ripeto, non stava arbitrando, e poi forse anche i migliori sbagliano. Le racconto di Webb, che è considerato il miglior arbitro del mondo, che quest'anno, intorno a dicembre, ha completamente sbagliato in Premier 3 partite, ma sbagliate davvero, tra rigori, gol annullati, eccetera, eppure nessuno si è sognato di massacrarlo e di dire che quell'arbitro lì in Inghilterra non è più buono per arbitrare i big match, come ad esempio è capitato anche in questa stagione a Rizzoli. Ecco, proviamo a fare un salto anche noi allora, invece soltanto di dire che fuori arbitrano meglio e quando tornano a casa invece sbagliano perché c'è la sudditanza. Massimo da Rimini, Massimo. Sì, buongiorno, sarò rapidissimo. Prego. E le volevo chiedere se secondo lei, o a parere dei suoi esperti, l'episodio di gioco che ha riguardato il portiere e l'intervento sul centravanti ricorda un po' quello di Ronaldo e Giuliano nel 98? No, non c'entra assolutamente nulla. C'è anche chi scrive che ricorda l'intervento di Martina su Antonioni, quello famoso che creò anche dei problemi fisici ad Antonioni, ecco, un po' di più, ma Giuliano Ronaldo no, sinceramente nulla. Tutti convocati. Trovati, gentili telespettatori, dall'arena Fonchinova di Salvador per Germania-Portogallo, gruppo G, esordiscono oggi, insieme con loro nel gruppo ci sono anche gli Stati Uniti e il Ghana. Simpatico, un sondaggio che ha fatto la Stern, il 6% non crede alla vittoria finale della Germania, il 41% invece crede che si fermerà in semifinale e il 28% che si fermerà ai quarti di finale. Germania che batte 4-0 il Portogallo, settima vittoria consecutiva in una partita inaugurale al Mondiale per la Germania, che festeggia al meglio le 100 gare alla mondiale per il titolo. La Germania c'è, per il titolo la Germania c'è. Parte Schweinsteiger, pallone del Buch, stacca di testa e c'è sotto porta il gol di Miro Klose. Arrivo di Kroos, Özil la mette dentro per Tesaker, Awad e poi Bella. Özil in area, Özil controlla male, serve l'assist al compagno per we'll be right back. Brasile contro Germania, una partita che abbiamo aspettato e che vogliamo vedere, perché da una parte c'è la religione, la fede per il gioco, per le speranze di un popolo e di una nazione, dall'altra invece la forza, la consapevolezza della propria forza, la logica della Germania, la logica della Germania. Ancora una palla persa, che dire, ha detto Toni Kroos, 4-0, non ho mai visto nella mia vita una semifinale così. Prova a uscire Hummels, dentro ancora il pallone, che dire, il buco continuo, che dire, apre così, dentro ancora Semi, che dire, questi non si fermano. È una semifinale che passerà la storia. Germania batte Brasile 7-1. Germania-Argentina, la finale, benvenuti nel tempio. Sul passaggio c'è Higuaín, posizione regolare, Higuaín, si divora il gol dell'1-0. Cross, cerca ancora un pezzo, arriva un palo clamoroso, Romero, ma poi c'è fuori gioco, la palla profondità, c'è proprio Messi, sul fondo, dice che può bastare, direttore di gara, 0-0 al 90esimo, e per la terza volta consecutiva la finale mondiale va ai supplementari. È andato centrale Müller, Schürrle fino in fondo, cerca il traversone, buono Götze! Götze! Germania in vantaggio all'ottavo, proprio il nuovo entrato Mario Götze rompe l'equilibrio come Iniesta 4 anni fa, e la Germania è campione del mondo. 4 anni dopo il 1990, ancora contro l'Argentina, ancora per 1-0. Oh, perché c'è anche la Germania, dopo aver celebrato il funerale dell'Argentina, Messi, se è più o meno come Maradona, noi andiamo avanti ancora, se volete chiamare 800 24 00 24, siamo insieme fino alle 16, però c'è anche la Germania che secondo me era il pronostico più scontato, ma non ieri, dal 12 giugno, cioè da quando è iniziato questo mondiale, perché era un gruppo solido, maturo, abituato a partite di altissimo livello, forte tecnicamente, tatticamente organizzato, insomma tutto quello che abbiamo visto in questo mese. Però è anche vero che poi ieri alla prova della finale ha rischiato, però hanno vinto i più forti. Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, ciao Matteo. Ciao, buongiorno Giovanni, ciao. Hanno vinto i più forti, sì. Dimenticandoci quello che abbiamo visto ieri sera, che poteva, lo stiamo dicendo, anche disegnare un finale diverso. Ma sì, hanno vinto i più forti. Intanto ti do, come dire, merito e riconoscimento, che tu l'hai detto in tempi lontani, che avrebbe vinto questa Germania. E credo che abbiano vinto i più forti, che però in questi anni erano sempre incappati in una partita sbagliata, cioè una partita maledetta, la volta con la Spagna nel 2010, la volta con l'Italia nella semifinale, ancora nel 2008. Cioè la Germania arrivava sempre vicino alla vittoria, però sembrava non afferrarla mai. Stavolta l'ha fatto giustamente, diciamo, frutto di un lavoro straordinario dal punto di vista della programmazione e dell'organizzazione. Guardavo ieri il dato statistico, 6 undicesimi, la Germania che è scesa in campo ieri sera, erano nella squadra che nel 2009 ha vinto l'Europeo Under 21, 6 undicesimi. Frutto, diciamo, delle contaminazioni, perché qui c'è un po' di Heynckes e di del suo Bayern nel senso della concretezza, c'è probabilmente la verticalizzazione di Klopp, quindi la capacità di giocare anche in profondità, e un'ultima spruzzata in questo cocktail tedesco anche di Guardiola, che qualcosa secondo me ha portato in questi mesi. Sì, è stata una Germania un po' diversa, meno europea, più catalana, nel senso buono del termine. La concretezza tedesca, diciamo, ha le sue radici in quell'idea di calcio lì, che però si è evoluto, si è fatto più moderno anche, diciamo, grazie agli allenatori come Guardiola, come lo stesso Klopp, che qualcosa hanno sicuramente portato. Per cui frutto della programmazione, frutto della capacità di affrontare i problemi in modo serio, sono ripartiti dopo i famosi europei con una rifondazione vera del loro calcio, hanno investito quasi 800 milioni di euro nei settori giovanili, e questo è il risultato. È chiaro che se tu arrivi sempre in finale, tu dicevi giustamente anche la consuetudine a giocare certe partite, non dimentichiamoci che l'anno scorso la finale Champions tutta tedesca e molti sono i protagonisti che poi hanno vinto oggi, quindi se arrivi lì in fondo poi posso poi anche vincere. Sì, io sono rimasto anche colpito dalla compostezza ieri dei festeggiamenti. Ci sarà anche il carattere tedesco, però evidentemente c'era anche la consapevolezza di aver completato un lavoro per il quale ci si era preparati in maniera adeguata, perché non ditemi di aver visto i tedeschi perdere la testa per questo mondiale, ma anche i giocatori in campo. 800 24 00 24, direttore, ti chiedo ancora un minuto. C'è il traffico? No, non c'è il traffico, e allora possiamo andare avanti. Sì, perché oggi è l'ultimo giorno con le due ore, da domani, ma saremo qui poi per tutta l'estate, saremo un'ora dalle 14 alle 15, e quindi insomma ci sono cambiamenti di palinsesto. Quindi non si può dire che ha vinto il Bayern Monaco, anche se 7/14 dei tedeschi scesi in campo ieri in fondo sono giocatori in questo momento del Bayern Monaco. No, hanno vinto i club tedeschi, invece, secondo me, vado controcorrente, cioè, secondo me ha vinto il Bayern Monaco, ha vinto il Borussia Dortmund, con storie diverse, con anche qui idee di formazione diversa, però hanno vinto i club tedeschi. Prima citavo questa cifra, 800 milioni di euro, tre quarti dei quali vengono dai club, cioè la ricostruzione del calcio tedesco non l'ha fatto la federazione in grande parte, l'hanno fatto proprio i club, e questo secondo me è un dato importante, perché penso sempre all'Italia, quello che succede in Lega Calcio da noi, in cui si azzannano per i diritti televisivi ma mai per un dovere nei confronti del calcio italiano. E quindi c'è molto invece di questo, del Bayern, diciamo, proprio la struttura. Penso che a un giocatore come Kroos, che lì è stato allevato e cresciuto, a Neuer, che è diventato ancora più forte una volta passato dallo Schalke, arrivato in Baviera, ovviamente diciamo ai leader storici, gli Schweinsteiger, i Lahm, c'è moltissimo della squadra che ha fatto il triplete un anno fa, in fin dei conti. Sì, non chissà quando. Ci ha raggiunto Pierluigi Pardo. Pier, come va? Ciao Pier, dove sei? A Rio. Bergo, sì. Quando torni? Domani. Domani parto, e quindi dopo domani torno. È andato lungo questa notte con le feste? No, noi benissimo, chiedo a te. Ma sì, insomma, mi sembra tutto abbastanza sobrio per quanto riguarda i tedeschi, che hanno festeggiato insomma in maniera così moderata, almeno qui a Rio c'è stato questo party privato nello Sheraton sotto Vidigal, con la proiezione delle quattro stelle su uno scoglio di fronte al mare, abbastanza suggestiva, ma insomma mi sembra che siamo lontani dagli eccessi che si sono visti altre volte, insomma un festeggiamento anche in campo molto, molto sobrio per essere la Coppa del Mondo. Ma sei riuscito ad entrare o no? Alla festa no, sì. non sono riuscito a entrare, ci ho provato, ho fatto un timido tentativo, e devo fare, insomma non è che posso vestirmi da Merkel, quello è. C'era la Merkel alla festa? Guarda, quando siamo arrivati noi non c'era ancora, poi probabilmente io ho visto delle foto dove sembrava, però magari sono le stesse scattate allo stadio. Noi siamo passati lì intorno all'una e mezza, fra l'una e le due ora locale, e mi ha detto che non c'era ancora. Per cui probabilmente le foto non state scattate prima, ma insomma vabbè dai, grande festa, giustamente, però mi sembra che sia la vittoria della grande programmazione tedesca di questi ultimi anni, mi sembra una vittoria meritata per quello che il mondiale ha mostrato, più per il mondiale che per la partita di ieri. Sì, perché ieri sera poteva finire diversamente, Pier. 800 24 00 24, continuate a chiamare perché poi ci sarà spazio anche per voi. Noi lo stiamo dicendo, fra tutte le Germania viste in questo mondiale, quella di ieri sera è parsa quella col braccino, soprattutto per la prima ora di gioco. Sì, beh, no, comunque poi c'è anche un'avversaria che non è stata brillante, ma sai, la categoria, sono due categorie diverse secondo me, la brillantezza, quindi la spettacolarità di una squadra, e la forza complessiva. Cioè l'Argentina è vero, non è stata bella a vedersi sempre, però alla fine è una squadra che ha portato a casa i risultati, e ieri secondo me insomma ha dimostrato di essere, dal punto di vista della qualità, vicina alla Germania. La sostituzione di Lavezzi mi è sembrata incomprensibile, veramente incomprensibile, e poi la partita sarà decisa dagli episodi, ma insomma fino al gol secondo me la Germania mi era piaciuta di più complessivamente, però se guardiamo le occasioni clamorose, eravamo 2-1 per l'Argentina. Sì, sì, a parte il palo era quasi solo Argentina. Sulla sostituzione di Lavezzi, poi si sta facendo grandissima dietrologia, lo chiedo anche a Matteo Marani, ci sono anche questi video con Sabella che parla e Messi che letteralmente non lo guarda nemmeno, e in tanti hanno detto, e anche in Argentina si stanno chiedendo perché Sabella ha tolto Lavezzi alla fine del primo tempo, l'ha fatto perché Messi voleva così. Io non so se sia vero, però certamente su Messi si discuterà molto dopo questa finale, a parte il paragone con Maradona e tutto quello che ci portiamo dietro. Dunque, ripartiamo da Messi, Matteo Marani. Sì, ma sai, è chiaro che doveva essere il suo mondiale, non lo è stato. Un po' anche stufato questo paragone con Messi, però d'altro canto è quasi inevitabile, se vogliamo fare il famoso parallelo, sì, ma anche giusto, perché comunque no, inevitabile, ci sono delle regole dalle quali non si può sfuggire, fanno parte del dibattito e delle analisi. Dicevo, facevo una riflessione storica: Maradona non partecipò nel 78 perché Menotti alla fine lo lasciò a casa all'ultima, nell'82 fallì, al terzo mondiale vero fece l'86 e andò a vincere un mondiale da solo. Questo era il terzo mondiale di Messi, perché l'assaggio del 2006, la delusione del 2010 col suo, diciamo, col suo nome tutelare Maradona, doveva essere il suo mondiale. Lo è stato quando, diciamo, contava meno, perché chiaramente, insomma, le partite con Bosnia, con l'Iran e con la Nigeria non possono valere come momenti decisivi. Maradona nel 86 decise contro l'Inghilterra ai quarti, contro il Belgio in semifinale e col famoso assist a Buruciaga per la finale. Messi è scomparso. Quell'immagine che dicevi tu, Giovanni, secondo me è un po' riassunto anche del suo isolamento, e se posso aggiungere un elemento, un po' la protervia di Messi, cioè Messi che passa per un giocatore docile, in realtà è uno, l'abbiamo visto nel Barcellona, lo stiamo vedendo anche nell'Argentina, che pesa nelle decisioni. Cioè, Tevez è rimasto a casa perché era il giocatore del Pueblo, Conte, quindi Messi gli dava fastidio, faceva ombra, è stato lasciato a casa. Oppure ai tempi del Barcellona penso a Ibrahimovic, altri giocatori che non si sono sposati con lui, o l'avessi non ultimo ieri. Dopodiché, quando c'è bisogno di cercare il leader, lui non c'è, l'unico che abbiamo visto il leader è stato Mascherano in questo mondiale. Sì, di sicuro questa sconfitta verrà parecchio imputata a Messi. Mi dici, Pier, se hai incontrato qualcuno dei 100.000 argentini che erano fino a ieri lì a Rio, che cosa pensano oggi di Messi? Ma io sì, li ho intervistati un po', e la sensazione è che vogliono bene a Messi, vogliono bene a Maradona, cioè è difficile decidere, ma cioè il punto di partenza di questi giorni è: Messi sarà uguale a Maradona il giorno che ci farà vincere il mondiale. Questa era un po' Ma sono delusi, l'hanno scaricato, no, delusi per la sconfitta, per carità, immagino. Scaricato non credo, poi insomma noi dobbiamo sempre ricordarci che questo poi porta al nichilismo, però che alla fine la differenza tra le vittorie e le sconfitte a questi livelli, in queste partite secche, è veramente fatta dal dettaglio. Io ricordo sempre Cristiano Ronaldo, che è un giocatore che mi fa impazzire, ha vinto il suo primo pallone d'oro e ha vinto la Champions dopo una finale in cui ha sbagliato un calcio di rigore. Ha sbagliato il suo rigore ed è stato poi fortunato perché Terry, inciampando sul è scivolato. Quindi voglio dire, poi c'è questa componente che è difficile da spiegare, no? Poi alla fine se alzi la coppa è un conto, se non la alzi è un altro. Ieri, se avesse segnato uno dei due gol facili, Higuain o Palacio, probabilmente avremmo parlato di un'altra storia e Messi sarebbe stato considerato il trionfatore. Allora, io non sopporto gli eccessi di marketing che ci sono su Messi, che è stato per esempio votato non si sa bene da chi come miglior giocatore del mondiale, e fa ridere, non è roba del genere, no? I premi che vengono dati a Messi a prescindere solo perché si chiama Messi, però adesso non sarei neanche a esagerare nei capi di imputazione. Certamente Maradona nell'86 prese per mano la squadra molto di più di come ha fatto Messi. Messi l'ha fatto nelle prime tre partite e l'ha fatto in maniera eccezionale in quelle prime tre partite, poi si è fermato e ieri alla fine è mancato. Al di là della palla gol sul importante che ha avuto all'inizio del secondo tempo, ma è mancato secondo me proprio come impatto sulla partita. Sì, è mancato. Aveva cominciato bene. Anche se ci ha provato, perché ripeto, ieri non è stata la peggior partita di Messi in questo mondiale. Secondo me anche questo è un argomento che andrebbe tenuto in conto. Fammi salutare il direttore Marani con l'ultima domanda, che è a proposito di marketing e di premi: chi vince il prossimo pallone d'oro? Io temo Messi. Temo Messi. ci può stare, se la FIFA ieri l'ha premiato come migliore del torneo, direi che la dice. Ci può stare tutto, dice. Ci può stare tutto, anche sì, che a dicembre premino punto, Messi. A questo punto rossaniamolo, no, dai. Chi lo vince, Matteo? Sto riflettendo, diciamo, a rigor di logica deve vincere un tedesco, quindi penso per esempio Müller potrebbe essere un giocatore, però sai, il problema è che quando votano dall'altra parte del mondo, e come diceva prima Pierre, è un'icona che votano, non è più un giocatore, non è più un giudizio tecnico, è il voto, diciamo, è un atto di fidelizzazione nei confronti di un'icona, io non escludo che qualcuno voterà Messi comunque. Guarda, io non, Pierre, che questo nuovo pallone d'oro mi fa schifo, lo dico proprio molto serenamente, nel senso che quello vecchio aveva il difetto di sovrastimare appunto il risultato, e il risultato è un risultato di squadra, per cui tu hai avuto Sammer pallone d'oro, hai avuto, cioè, diciamo, Messi quest'anno senza aver vinto il mondiale e senza aver vinto nulla di importante con il Barcellona non avrebbe mai, non sarebbe neanche in corsa, no, con i vecchi criteri. Oggi però mi piace ancora meno questo pallone d'oro, perché alla fine diventa una specie di, appunto, di exit poll, di sondaggio d'opinione su chi è il giocatore che ti piace di più al mondo, e quindi puoi andare avanti per 10 anni con lo stesso indipendentemente da quello che fa sul campo. Ora poi Messi è uno che questi anni, a parte l'ultima stagione, ha avuto sempre un rendimento eccezionale, quindi poi più o meno se l'è sempre meritato come valore, però mi piaceva di più prima, era più stimolante, era alla fine più divertente. È chiaro che anche lì c'era un baco, anche lì c'era il sovrastimare un risultato sportivo che è dovuto a altre cose. Sì, però era più legato almeno al risultato del campo. Invece io scommetto i miei 2 euro che a dicembre nei primi 3 Messi c'è, e temo fortemente che alla fine possa molto pesare il marketing. È il giocatore. Sì, però è poco commerciale, poco, ruba poco l'occhio. Vota Müller. Ciao direttore, Matteo Marani, Guerri Sport, prego. Volevo dire, d'accordo con il discorso di Pier, aggiungo un narcisismo, cioè da quando gli elettori non sono più solo i giornalisti, i famosi bistrattati giornalisti, secondo me dal punto di vista tecnico il premio ha perso molta credibilità, quindi spesso siamo criticati per non essere, in realtà finché ha votato solo i giornalisti è stato sicuramente più attendibile e affidabile. Poi è arrivato Blatter e con tutto quello che ne consegue, ecco, direttore, ti salutiamo con i complimenti di un ascoltatore per il libro su ArpAdvice. Grazie. Ciao direttore. Ciao a tutti. Ciao. 800 24 00 24, c'è Riccardo da Roma. Riccardo. Sì, sono qui, grazie. Eccoci. No, mi veniva in mente, sentendo questa, io non so se mi sono collegato tardi, ma forse qualcuno l'ha già detto, ma noi guardiamo il paragone Messi-Maradona, no? Ma io guarderei pure il paragone degli altri 10-11esimi con l'86 in Messico, perché il 78 fu un mondiale particolare, brutto anche sotto quello che c'era dietro in Argentina, ma nell'86 mettiamo invece i 10-11esimi di Messico, mettiamoli ieri sera accanto a Messi, e forse non dico che l'Argentina vince, ma se vediamo le individualità che c'erano allora non c'è paragone, eh? Sì, io non so, Pierre, che ricordo, e tu anche dell'86, non mi sembrava una grandissima Argentina, tanto fu Maradona a portarla fino al titolo mondiale. Valdano, Buruciaga, secondo me il paragone ci sta, cioè non era una grandissima Argentina quella, non è una grandissima Argentina questa, ma forse come talento individuale questa ha anche qualcosa di più, ma Maradona era un trascinatore. Io adesso vorrei spostare il discorso da un orizzonte puramente tecnico, un orizzonte più simbolico, perché se c'è una cosa, questa sì che la si può oggi, tra virgolette, rinfacciare a Messi, è proprio nell'eterno parallelismo con Maradona, è proprio questa mancanza di personalità. Stiamo parlando di un giocatore incredibile, però insomma, voglio dire, il trascinatore che era Maradona non lo si può discutere, e forse mi viene anche da pensare, facendo così lo psicanalista da quattro soldi, che il fatto di giocare in una squadra perfetta, come succede negli ultimi anni a Messi, forse non lo allena tanto a essere un leader. Cioè Maradona è uno che comunque ha fatto delle scelte, la scelta di Napoli non fu una scelta facile, fu una scelta di opposizione. Maradona è uno che è sempre stato all'opposizione nella sua vita, delle volte anche da se stesso, come si diceva prima, ma evidentemente questo tipo di ruolo e questa personalità dell'affrontare tutto e tutti e dello sfidare tutto il mondo ce l'ha avuta addosso. Messi è chiaro che gioca in una squadra che è la più forte al mondo, se non è la più forte è la seconda più forte, e quello è. Sì, anche se è una squadra che poi senza il miglior Messi non ha vinto, perché questo è successo anche negli ultimi 2 anni del Barcellona, e quindi evidentemente anche un peso Messi deve averlo avuto. tutti convocati. Ma allora, che t'ha fatto sto ragazzo? No poder ser tan notario, te olvidaste de Carlitos, tanto tiempo, tantos años. Y ahora sí se va a terminar. Y ahora sí se va a terminar. Y ahora sí se va a terminar. Ganó Alemania, campeón del mundo Alemania. Gracias muchachos, gracias. Gracias por esto. Gracias de corazón. Gracias, gracias de corazón. Gracias Mascherano, gracias Romero, gracias Micho, gracias Zabaleta, gracias Sabela, gracias muchachos, gracias Lionel, gracias muchachos. Yo estoy conforme y les hago el aguante. Aguante Argentina. Gracias pibes, gracias de verdad. Vos tuviste que ignorarlo. Non so, Pier, come faremo senza Alejandro Fantino da qui in poi. Ma tu Tevez, Pier, l'avresti portato? Avrebbe cambiato qualcosa in questa Argentina? Non lo so, parliamo di dettagli, quindi non so se avrebbe avuto la freddezza su quella palla di Higuain, di Palacio, o se avrebbe aperto delle situazioni tattiche di tipo diverso. Io l'avrei portato perché secondo me lo merita, insomma, perché per me è un talento. È un fenomeno subito dietro proprio ai fenomeni, insomma, secondo me è su livelli veramente importanti, è un passo sopra Palacio, tanto per capirci, sto parlando di un giocatore che stimo tantissimo, ma probabilmente anche ad Aguero, insomma sì, quantomeno non è inferiore, assolutamente, quindi... E quindi sì, l'avrei portato ampiamente. So che insomma c'è un discorso di qualcuno maligno, appunto, che avrebbe fatto ombra a Messi, ma sono d'accordo con quello che diceva prima Marani, nel senso che comunque poi alla fine Messi ha una leadership strana, nel senso che comunque non è una figura poco condizionante. È normale che sia così, trattandosi del miglior giocatore del mondo, però insomma magari il carattere apparentemente così taciturno e quasi remissivo farebbe pensare altre cose. Ulisse ci scrive: ma quale braccino la Germania? C'erano Lavezzi, Messi e Higuain contro difensori lenti che venivano regolarmente saltati. È vero, c'erano anche in campo alcuni abbinamenti in cui la Germania ha fatto fatica. Ti leggo cosa ha detto Barbara Berlusconi, amministratore delegato del Milan: la vittoria tedesca nel mondiale è frutto del coraggio di cambiare uomini e regole. La Germania ha meritato, è la squadra più forte, ma questo successo viene da lontano, non si vince per caso e arriva dal coraggio di cambiare uomini e regole. Io sono sicuro che tutto questo discorso, bellissimo e condivisibile, tempo 48 ore ce lo dimenticheremo e poi torneremo a litigare di diritti TV, della poltrona di presidente della Federcalcio, anche della panchina da commissario tecnico. Ti è arrivata la notizia che si è dimesso Scolari? Sì, sempre troppo tardi. No? Sì, sempre un minuto troppo tardi, però alla fine si è dimesso, almeno questo scrive, credo, non è ancora ufficiale, giusto? Sì, me l'hai detto tu, ma insomma se verrà confermato sarà comunque in ritardo. Sì, lo dice TV Globo, non lo dico io. Sì, allora è ufficiale, allora è ufficiale. No, voglio dire, comunque sia, arriva dopo una campagna, quello qua, 4 minuti fa, la stampa, eccetera, eccetera, i più veloci sono stati in Italia. Soprattutto non è in sintonia con quello che lui ha dichiarato dopo la partita, nel senso che mentre Prandelli, perché tanto è lì che dobbiamo andare a parare, sì, tanto è lì, comunque si è preso subito le colpe. Scolari assolutamente no, Scolari ha difeso la squadra in maniera abbastanza ridicola, ha difeso soprattutto se stesso, poi evidentemente le dimissioni sono arrivate o perché è rinsavito o perché più probabilmente gli hanno fatto capire che non è stato accompagnato alla porta, magari questo non lo sappiamo, ma avrà sì, anche trattato una buona uscita, non lo so, ma insomma, io non lo so la buona uscita, ma credo sarebbe capitato lo stesso a Prandelli di ritorno in Italia, come è capitato a tutti tutti i CT usciti al primo girone. È la differenza che esiste fra un gesto spontaneo di chi si rende conto di aver sbagliato e invece un gesto forzato che arriva in ritardo dopo che si è detto l'esatto contrario e che sicuramente è frutto delle pressioni dirette o indirette, solo mediatiche oppure, questo non lo sappiamo, probabilmente da parte di qualche dirigente della CBF, perché si dimettesse, insomma. Quindi fa una profonda differenza, secondo me. Sono dimissioni completamente diverse da quelle di Prandelli. Alfredo da Teramo. Alfredo. Buon pomeriggio. Allora, io mi volevo permettere soltanto di dare la mia visione, la mia in merito all'incontro di ieri sera. Sì. In primis mi è sembrato particolarmente violento l'intervento del portiere della Germania su Higuain. Quantomeno visto in diretta è stato proprio un intervento corposo. Sì, anche Pier, io non so, poi facciamo andare avanti Alfredo, se tu sei d'accordo con Graziano Cesare che abbiamo sentito prima, quello non è calcio di rigore, ma è un'azione di gioco, tra l'altro noi arriva col pallone, sul pallone col pugno. Il portiere esce in anticipo col pugno netto sul pallone, poi c'è uno scontro fisico sicuramente è ruvido, ma insomma Neuer pesa tanto, è molto fisico, ma secondo me quello non è mai calcio di rigore. Alfredo, prego. Sì, no, io non dicevo che fosse calcio di rigore, dicevo quantomeno l'intervento fosse da sanzionare con una almeno con una ammonizione, al di là ma di questo. Munizione, se dai l'ammonizione dai rigore. Dai rigore, è chiaro, vabbè. Perché sei dentro l'area di rigore, è stato un errore certamente dare fallo contro Higuain, quello è stato un errore. Quantomeno la mia osservazione era che la sta i giornalisti lo hanno poco enfatizzato, l'hanno poco sottolineato, questo mi è sembrato un pochettino strano, anche in televisione non è stato dato poca attenzione a questo. Mi scusi, ma se era rigore o non era rigore? Allora, se era rigore ha ragione, se non era rigore però... allora era un calcio di punizione, c'era? No, non era niente, no, non era rigore, nulla, cioè, non era nulla. Di un portiere regolare. Secondo me. Sì, poi è stato un errore. Poi è stato un errore dare il fallo di Higuain, però a questo punto è un dettaglio, nel senso che non ha cambiato certamente gli equilibri della partita. Tant'è vero che dopo il giocatore non ha fatto più niente, poi l'hanno anche cambiato, va bene. No, ma quella è un'altra cosa, quello è un altro scontro. Era anche stanco, chiaramente. Sì. L'ulteriore considerazione che mi volevo permettere di offrire al vostro dibattito era questa: in una situazione generale di gioco che è stata vista in questi mondiali, molto probabilmente la Germania ha giocato tra virgolette all'italiana, tant'è vero che il gol è stato un tipico gol all'italiana, in contropiede, colpo veloce, tac, alla Rossi e gol di Goetz. Dopodiché il rammarico di non aver portato dei ragazzi dotati di grande umiltà che avrebbero potuto tranquillamente offrire un'opportunità diversa all'Italia. Sì, beh, anche perché fare peggio di quello che abbiamo fatto era difficile. No, Piero, che Costa Rica prego, sì, Pier. Che c'era questa cosa che ci eravamo fatti, questo specie di fantacalcio, di dire dobbiamo evitare la sfida col Brasile, no? C'era questo incubo nel nostro tabellone, il Brasile. Insomma, col senno di poi forse il rimpianto aumenta, perché forse con questo Brasile potevamo anche giocarcela, sinceramente. Sì, potevamo stare anche noi lì nelle prime 8. Alberto da Macerata, Alberto. Sì, buon pomeriggio. Allora, guardi, volevo un po' intervenire su queste partite che a un certo punto stancamente arrivano ai rigori. Sì. Cioè, forse molto prima, anche la fine del primo tempo, già quando le squadre sono abbastanza equivalenti, si arriva stancamente, a meno che non arriva la giocata o, come si è sottolineato ieri sera, l'errore di posizionamento dei due centrali. Sì. Allora, io, visto che comunque non si schiola da partita supplementari e rigori, proverei un po' ad invertire e magari mettere il tiro di rigori alla fine dei 90 minuti, i giocatori sono ancora freschi, chi vince i rigori ha un bonus che poi dopo, se i supplementari non cambia niente, hanno vinto, però ci sono 30 minuti da giocare ancora. Pier, Cioè, in pratica il vantaggio è abbastanza cervellotica, ma è interessante. Cioè, in pratica prima i rigori ti danno, ma a quel punto la squadra che ha vinto i rigori si chiude sempre, sì, di più. Sì, sì, so, ma come so. Accade col Golden Goal, che un fu un disastro. Per capirla. No, però... a me sembra, Pier, scusa, che al massimo questi mondiali, che hanno tra l'altro battuto il record di partite che sono andati supplementari, abbiano dimostrato che supplementari si può anche fare del bel calcio, perché noi abbiamo visto dei supplementari meravigliosi, a parte Argentina, Olanda, ma quella è stata una partita orrenda dall'inizio alla fine. Mi sembra che quest'anno non ci possiamo lamentare di quello che abbiamo visto, almeno i supplementari, ma in generale, 171 gol, record insieme a Francia 98 della storia dei mondiali. Anche questo, insomma, è un dato di cui tenere conto. Tutti convocati. Tra poco andiamo in Francia, perché sta succedendo di tutto nella tappa del Tour de France, ve lo racconteremo. Oggi è un tappone con tante salite, e c'è Nibali che potrebbe riprendersi la maglia gialla. Intanto però Alessandro da Milano. Alessandro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare un mio contributo sui premi personali che vengono attribuiti nel calcio. Se vi ricordate, il Pallone d'Oro per me ha perso ogni credibilità nel 2010. In quell'anno io sono milanista, per cui non faccio il tifo per Milito, però in quell'anno Milito con l'Inter ha vinto la Coppa Campioni, ha fatto gol spettacolari a ogni turno e ha fatto due gol in finale. A fine anno non è stato inserito neanche nei primi 30. Forse le logiche sono logiche di altro tipo che fanno attribuire i premi. Vi ascolto per radio, vi faccio i complimenti. Sì, e ancora di più Schneider, nel 2010, che era arrivato anche a un passo da vincere il titolo mondiale. C'è chi scrive un sms e ricorda che quest'anno hanno riaperto addirittura le votazioni per Cristiano Ronaldo, perché per la stampa il migliore era Ribéry. Pierre. Sì, che lo meritava per la Champions, ma insomma sì, sono... A me appassionano poco, sinceramente, questi premi individuali. Conta il campo, conta vincere le partite, conta vincere i trofei, e questi premi individuali avrebbero senso soltanto nella misura nella quale potrebbero, diciamo, sterilizzare le fortune e sfortune che possono capitare alla carriera di un calciatore, ad esempio appunto il fatto di vincere o di perdere una finale mondiale, una finale di Champions per un episodio. Ma invece in realtà negli ultimi anni è diventato essenzialmente un sondaggio sulla popolarità, sulla qualità, per carità, ma insomma nel quale c'entra molto la popolarità, per cui è diventato ormai per forza Messi o Cristiano Ronaldo a prescindere, e vince quasi sempre Messi. Ha vinto, per dirti, Iniesta poteva meritarlo, credo, insomma, senza grandissimi dubbi. Quel famoso 2010 c'era sicuramente Iniesta, c'era sicuramente Milito, sono d'accordo con l'ascoltatore, e invece poi alla fine si va sempre su Messi o su Cristiano. Sì, speriamo non vada così anche quest'anno. Io temo che sicuramente tra i primi tre. Vota Müller. Ciao Pierre. Ciao, e buon viaggio. La maglia è persa, però insomma era quello che volevate, mi sembra di capire. Oggi la squadra ha lavorato tutto il giorno, di più non si poteva, e tutti volevano andare in fuga, quindi ha preso la maglia Carlo Penne, però penso che non c'è da perdere la testa. Cioè, domani sicuramente non toccherà lavorare noi e vediamo un po'. Oggi è stata veramente abbastanza dura come giornata, siamo riusciti a passarla abbastanza bene. E per uomini di classifica si è avvicinato, penso, di più Pierre Roland, e poi vediamo. Ora, non so nemmeno chi, sì, Tony Martin, ma per domani è una tappa con arrivo in salita molto dura, quindi vediamo. Nessuno ci ha aiutato e noi abbiamo lavorato tutto il giorno e nient'altro. Oh, questo Nibali ieri, perché invece oggi sta succedendo di tutto. Pier Augusto Staggi, ciao. Eh sì, è una battaglia, ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Un'autentica battaglia al Tour, mancano 85 km all'arrivo della planche de Belfie, e la situazione è, diciamo, riassumibile in questo modo: alla tappa un gruppettino con Tony Martin, tra l'altro vincitore ieri di una tappa eccezionale, quest'uomo, l'uomo del cronometro, che però sa andare con un passo eccezionale anche in salita e trascina i suoi compagni come nessun altro sa fare, e oggi trascina un compagno che ha la maglia bianca, è polacco, si chiama Kwiatkowski, uno dei corridori più promettenti del ciclismo mondiale, ha la maglia bianca perché è leader della classifica dei giovani, cioè il miglior giovane del Tour de France, e sta dando abbastanza fastidio al gruppo della maglia gialla, tant'è vero che la stada di Nibali si è messa al lavoro per tamponare o perlomeno controllare la situazione in testa al gruppo. Ma cosa è successo invece nelle retrovie? È che lungo la discesa del terzo colle di giornata, ricordiamo che ce ne sono sei più l'arrivo in cima alla Planche des Belles-Filles, che è un traguardo estremamente ostico, molto difficile, è caduto lungo la discesa Alberto Contador. Una brutta caduta, una bella grattata sul fianco sinistro, una botta anche alla schiena e soprattutto una botta al ginocchio destro, che ha necessitato delle cure piuttosto lente, devo dire, da parte del medico del Tour de France. Ha perso quasi 5 minuti, 4 minuti e 4 minuti e mezzo. Per circa 5 minuti la stana e la Lotto Bellisol della maglia gialla Tony Galopin sono rimasti passivi, hanno aspettato che lo spagnolo risalisse in bicicletta. Poi a un certo punto, visto che passavano i minuti, ha avuto il via libero, la situazione diventava complicata da gestire, perché davanti intanto i Kwiatkowski stavano scappando, hanno cominciato a tirare. Quindi adesso la situazione è questa qua, col gruppettino di Tony Martin, Kwiatkowski, Vauclair e una quindicina di corridori in avant scoperta. Il gruppo della maglia gialla e di Nibali a 3 minuti e mezzo, 4, distanziato a quasi 4 minuti Alberto Contador, che tra l'altro dà segni non buoni, non confortanti, perché il volto in realtà tradisce, ci confonde un po', perché dal volto non si capisce, sembra sereno e tranquillo, però la sua pedalata non forza, il colpo di pedale non è dei migliori, non dà potenza e sta perdendo costantemente terreno. E quindi oggi potrebbe essere una giornata in cui il Tour si perde più che vincersi, almeno per quanto riguarda Contador. Sarebbe clamoroso, perché dopo aver perso Froome per una caduta e averlo visto ritirare, perdere anche Contador a causa di una caduta darebbe il segno di un Tour a quel punto apertissimo a qualsiasi pronostico, infatti, a partire dal nostro Nibali. Infatti il Tour è apertissimo e anche noi italiani non dobbiamo fare ganassa, ma infatti Vincenzo Nibali e gli Astana non lo stanno facendo, non è che lo dicono come rituale, il Tour è lungo, viviamo la giornata, è così, anche perché quest'anno lo stiamo vedendo tutti, è un'estate assolutamente fuori dalla norma. E qua al Tour è una situazione semplicemente imbarazzante, cioè sembra inverno, in questo momento i corridori stanno correndo sotto la pioggia e sullo strappo che stanno affrontando c'è la nebbia, sono condizioni veramente, non dico estreme, ma molto difficili, e soprattutto che stressano e logorano tutto il gruppo in oltremodo, perché se ci fosse perlomeno il sole, la strada con l'asciutto, le biciclette sarebbero governabili in maniera molto migliore. Sì, sarebbe anche più facile stare in piedi. Potrebbero rilassarsi, invece sono sempre costantemente stressati, perché ricordiamo, sembra una banalità, ma i corridori vanno su strade che non conoscono, cioè, quindi già è difficile, come una volta disse Max Biaggi, che è un appassionato di ciclismo, ma anche Valentino Rossi, dice: io non so come fanno i ciclisti, perché noi giriamo sulle piste a 300 all'ora, ma perlomeno abbiamo tutta la possibilità con le qualifiche, con le prove, di conoscere quel circuito. I corridori vanno a 70-80 all'ora lungo le discese in condizioni miste, sole, neve, sì, pioggia, senza aver mai percorso prima quelle strade, conoscere com'è quella curva, quanto angolo di curva devono affrontare e quali, se ci sono buche, perché soprattutto in discesa sì. Una specie di super gigante, che poi è il corrispettivo nello sci, dove si scende veloci ma senza aver fatto nessun tipo di ricognizione prima. Pier, a domani, 81 km alla fine di questa tappa che rischia di essere decisiva per il Tour. A domani, Pier. A domani, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pier Augusto, abbiamo ancora un minutino. Massimo da Parma, Massimo. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei intervenire sul mondiale. Sì. Una cosa che ho fatto caso, però chiaramente nulla di ufficiale, tutte le volte che una nazionale vince un mondiale serve quasi per mascherare qualche magagna. Adesso non so se sia il caso della Germania, per l'amor del cielo. Sì, non so che magagna abbia da mascherare. Non lo so, per esempio 34-38 in un momento due mondiali e allegramente abbiamo fatto una guerra. Sì, ma non credo che però stiamo parlando delle stesse cose. Massimo, poi c'erano in tanti che ieri tifavano contro la Germania anche per antipatia politica, per il momento, per tutte queste cose. C'è anche chi l'ha scritto sui giornali, però insomma semplicemente ha vinto la migliore, ha vinto la Germania che ieri sera ha rischiato di non vincere, ma che nell'arco di questo mese insomma si è meritata questo mondiale. Ci fermiamo qui. Da domani, ve lo ricordo, tutti con Convocati torna a un'ora dalle 14 alle 15, però avremo spazio per parlare di tante cose. Torniamo anche sul mondiale, se volete seguiremo il Tour de France, e poi andiamo avanti tutta l'estate perché non ci fermiamo mai. Un ringraziamento a Franco Piantanida, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Robby Scaltritti in regia. A domani, ciao.